12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Oggi parliamo di un tema di cui probabilmente molti giovani in questo momento sentono parlare, o meglio lo vivono sulla propria pelle, ovvero cambiamenti di rotta, cambiamenti di lavoro. In questo momento in cui trovare lavoro è molto difficile, c'è anche chi prova appunto a intraprendere percorsi differenti. Avremo con noi tre ospiti che ci racconteranno le loro esperienze, dal proprio muovere i primi passi in una direzione differente al averlo già fatto e quindi fare un po' i conti a posteriori e quindi vedere un po' com'è andata, magari quali potevano essere le difficoltà e quali sono stati i punti di forza, e poi infine avremo un altro punto di vista, che è quello un po' invece di tenere delle cose parallele, quindi non di fare una scelta definitiva. 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Diamo il benvenuto a Giacomo Miglioranzi. Giacomo, che cosa stai facendo in questo momento nella vita? Ma attualmente sto cercando di avviare un'attività in proprio e legata al mondo del vino, passione storica per me, e collateralmente insegno in una scuola media. Ecco, sì. Giacomo, il tuo percorso qual è stato? Cioè, nel senso, oggi ti trovi appunto in questa situazione che stai avviando un'attività tua, sì, insegni nella scuola, ma il tuo percorso? Ma io ho un percorso ordinario accademico come musicista, quindi conservatorio, frequenza di scuole, di accademie private, anche di un certo prestigio, una carriera artistica alle spalle che dura ormai da più di 10 anni, e poi una storia di precariato nella scuola pubblica come insegnante di pianoforte o musica, quindi questa è un po' la mia storia. Progressa. Ecco, in questo momento appunto ci hai detto stai provando ad avviare, sì, un'attività in proprio. Sì. È stata una scelta di provare a cambiare un po' le cose o diciamo un po' quasi un obbligo, nel senso che... Sì, quasi un obbligo, è stata una scelta indotta dalla situazione che immagino vivano parecchie migliaia di giovani in Italia oggi, che è quella legata non solo al precariato intesa come mancanza di un impiego fisso, ma anche come mancanza di realizzazioni personali, professionali, e quindi sì, rispondo dicendo che è stato quasi un obbligo. Ecco, in questa fase così di scelta, di cambiamento o di obbligo, appunto, come hai detto tu, magari non so, i dubbi, le paure, le perplessità che stai vivendo in questo momento? Certo, ma i dubbi e le perplessità sono legati innanzitutto a così, alla paura di abbandonare il mondo al quale mi appartengo e al quale ho dedicato insomma gran parte della mia vita fin da bambino, e quindi la paura appunto di non poter più suonare, di non poter più studiare e di non mantenere quindi un certo livello tra virgolette, e dall'altro canto la paura quella meramente alimentare che insomma coinvolge chi decide appunto di mettersi in proprio non avendo poi le spalle copertissime, ecco. Certo. La paura della libera impresa in senso lato. Ecco, per intraprendere questo percorso ti sei rivolto a qualcuno? Hai avuto consigli utili, insomma? Sì, beh, prevalentemente mi sono inizialmente autogestito, nel senso che l'idea è stata mia, l'ho così progettata senza seguire consigli altri, perché pensavo appunto di prendermi la responsabilità del tutto. Dopodiché mi sono rivolto a dei professionisti, conoscenti, amici, quindi per capire un po' gli aspetti burocratico legali, e sì, quindi mi sono autogestito, però allo stesso tempo ho dovuto comunque rivolgermi ai professionisti. Ecco, ti senti un po' di dare questo tipo di consiglio magari a un altro ragazzo che potesse avere questa intenzione? Cioè, ovvero sì, è vero l'autoresponsabilità, l'autogestione, però magari ecco rivolgersi a degli esperti, magari a dei servizi. Sì, decisamente sì. Dopodiché sì, bisogna anche rivolgersi probabilmente alle persone giuste. Nel caso mio ho trovato delle persone giovani che così insomma capivano un po' le difficoltà alle quali si può andare incontro in una situazione del genere, e quindi sono state molto molto gentili, ma disponibili anche sotto il punto di vista della fase di startup. Non mi hanno chiesto denaro, insomma, ecco, quindi questo è da molto. Certo, ecco, perché poi no, anche questo è uno dei problemi, nel senso che poi uno magari che vuole intraprendere appunto un percorso di questo tipo, c'è anche l'aspetto economico che ovviamente conta. Esattamente, perché in questo momento, come tutti sanno, le banche non aiutano, anzi, per cui c'è anche il problema poi della reperibilità del capitale. Qualora poi il capitale sia rilevante nell'attività in questione, nel caso mio ho deciso di partire con un basso profilo proprio per avere un investimento minimo con la sperata massima resa futura immediata, insomma. Certo, allora Giacomo, io ti ringrazio per essere stato qui con noi, ti faccio l'in bocca al lupo per questa tua nuova esperienza, e a proposito della tua carriera da musicista, ci ascoltiamo ora un tuo pezzo da Giacomo Miglioranzi live alla turca. Grazie mille. Dodici minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. E adesso diamo il benvenuto a Federico. Ciao Federico, benvenuto a 12 minuti. Ciao, grazie. Ciao. Allora Federico, qual è oggi il tuo presente, quello che stai facendo in questo momento? Allora, in questo preciso momento sto montando un video di motion graphics, sarebbero animazioni. Ok, e quindi il tuo lavoro oggi è? Anche questo, poi faccio riprese, montaggi di cose reali, ogni tanto ci scappa qualche documentario, faccio foto, poi per arrotondare faccio anche corsi di informatica di base. E quindi anche il formatore. Pure. Tu oggi fai questo, ma il tuo percorso qual è stato? Oddio, il mio percorso, io sono laureato in scienze dell'educazione, però non ho, come educatore professionale extrascolastico, però di fatto non l'ho mai esercitato appieno. Il primo lavoro lo considero il tirocinio universitario, dove sono stato sei mesi in una comunità di accoglienza per minori che erano stati fondamentalmente allontanati per vari motivi dalle famiglie. E poi è stato un po' pesante come esperienza, poi ho fatto lavori diversissimi, sono stato in due call center fondamentalmente, uno breve, l'altro lungo, 4 anni. Poi ci sono state delle occasioni per cambiare lavoro e l'ho fatto, insomma. Ecco, proprio in riferimento a questo, vero, c'è stata l'occasione. Al momento quali sono stati magari i dubbi, le difficoltà, cioè di appunto intraprendere una strada nuova, magari anche con tutti i rischi che comportava? Allora, intanto dico una cosa, ho potuto permettermelo, nel senso che economicamente non devo pagare affitti, perché per 2 anni ho fatto il muratore, mi sono ristrutturato una casa, per cui questo sicuramente ha un suo peso. Questo ti permette di fare scelte in maniera, insomma, non dico disinvolta, però hai delle variabili in meno di altre persone, che ritengo sicuramente più fortunato di altri. Certo. E le cose sono queste. C'è un lavoro, io penso, cioè, il lavoro sono perlomeno 8 ore nella parte più importante della giornata, per cui l'importante è che sia una cosa dove si sta bene. Ho capito. Sia rispetto al lavoro che rispetto alle persone con cui si lavora. Quando manca una delle due cose è un ottimo segnale per cercare qualcos'altro se lo si trova. Bene, Federico, io ti ringrazio e adesso proseguiamo la nostra intervista con Giovanni. Diamo il benvenuto a Giovanni, giovane avvocato e scrittore. Ciao Giovanni, benvenuto a 12 minuti. Sì, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora Giovanni, ci racconti chi sei e che cosa stai facendo in questo momento? Ma io sono due cose contemporaneamente, nel senso che faccio l'avvocato tra Venezia e Padova, un po' Milano, e dopodiché scrivo anche romanzi. Tengo queste due vite, diciamo, parallele tuttora, non che non abbiano punti in comune, ma insomma sono comunque due impegni che tra di loro richiedono il doppio dell'attenzione, il doppio della fatica. Certo, a proposito della scrittura, è da poco uscito il tuo libro Tutti i colori del mondo, edito Feltrinelli. Ci racconti un po' di che cosa parla? Ma guarda, è un libro che parla tra l'altro di un altro uomo che ha fatto tante scelte nella sua vita, che è Vincent Van Gogh, il quale passa in un paese che si chiama Ghiel, dove le persone malate di mente vivono insieme alle, diciamo, persone normali, anche se le categorie sono così, e incontra una ragazza che gli spiega che lui diventerà pittore, perché anche Vincent Van Gogh ha cominciato molto tardi, a 27 anni, e prima ha fatto tutt'altri mestieri, quindi appunto, come dire, entra in tema, perché anche lui mi ha affascinato proprio per questo, perché a un certo punto la sua vita svolta, la sua vita va verso la pittura, quando prima in realtà ha fatto mille cose che non funzionavano. E quindi diciamo che un po' forse ti rispecchi anche proprio per questo, no? Perché in realtà, come dicevamo all'inizio, dall'avvocatura alla scrittura e anche forse molto altro nella tua vita, no? Sì, sai, il punto è che si cerca di far tutto e tutti noi, come dire, abbiamo quella parte di noi che penserebbe di uscire, di fare altro, specie poi quando c'è una cosa così preziosa come la scrittura, come le cose che ci sono, però poi forse è anche bello tornare, forse è anche bello poi cercare delle sicurezze in questo periodo anche così difficile, anche così difficile da rischiare. Certo, ecco, questi esempi così forti ti restano in testa spesso su cosa vuoi fare, ma soprattutto cosa vuoi essere, perché poi il vero gioco è quello lì, nel senso che il lavoro puoi farlo come vuoi, puoi anche, però è poi quello che ti determina, anche, come dire, anche avvocati, si è avvocati più che si fa gli avvocati, insomma. Assolutamente, concordo su questa cosa. E quindi mi pare un po' di capire che il tuo punto di vista in realtà non sia tanto appunto intraprendere magari un tipo di percorso piuttosto che un altro, ma quanto cercare di coniugare entrambe le cose, insomma di viaggiare un po' su strade parallele. Sai, questo è sicuramente un obiettivo, nel senso che cercare di fare più cose può essere semplicemente una ricchezza. Ovvio che magari ci sentiamo tra 5-10 anni e chissà cosa è successo, nel senso che in questo periodo, avendo meno di 30 anni, non ci sono cose che ti diano certezze. Certo, ci sono prospettive, ci sono sfide, ci sono scommesse, ma le certezze sono un'altra cosa. Diciamo che dal profondo però sento che queste due cose mi piacciono entrambe, e quindi farei fatica forse a rinunciare a una, anche perché anche se magari poi vai in ufficio, quindi hai degli orari. Poi la scrittura si nutre anche di questo, la scrittura è particolare proprio perché ti chiede di viverci intorno, altrimenti non sai scrivere probabilmente. Questo al di là del fatto che magari, insomma, mi auguro di avere un successo che mi faccia fare altre valutazioni, però a quel punto diventerebbero di un altro tipo. L'anima invece è pronta per tutte e due le cose. Assolutamente, assolutamente. Giovanni, io ti ringrazio per essere stato qui con noi e ti faccio quindi l'in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti futuri. Grazie a voi. 12 minuti. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Siamo giunti al termine di questa puntata dedicata a cambiamenti di vite e di lavori. I nostri tre ospiti ci hanno portato delle esperienze sicuramente molto personali, ma che probabilmente sono vissute anche da molti altri ragazzi in questo momento storico-economico in cui il mercato del lavoro risulta molto difficile e molto ostico. Da un lato c'è sicuramente la voglia di intraprendere nuovi percorsi e di provarci e di trovare in qualche modo la propria strada e di farsela anche in qualche modo. Dall'altro c'è un punto di vista che accomuna magari percorsi differenti, ovvero dove c'è la possibilità di non decidere e di fare scelte totalmente differenti, ma di poter portare avanti più cose e più interesse che poi magari possono essere proprio anche spendibili nel mondo del lavoro. Prima di salutarvi vi do qualche anticipazione, come al solito, sul prossimo appuntamento, nel quale affronteremo il tema della formazione. Tema della formazione legato poi all'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la domanda è: quanto conta la formazione oggi per trovare un lavoro? Per oggi è davvero tutto, io vi saluto, bye bye! Dodici minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.